30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. In questo giorno di festa il nostro programma ospita una conversazione con la storia, piena di emozioni, che ci porta lungo la cortina di ferro, attraverso l'Europa della seconda metà del XX secolo. Il protagonista è l'ex elettricista di Danzica, premio Nobel per la pace e poi presidente polacco Lech Wałęsa, Roberto Antonini, responsabile dei programmi culturali della Radio Svizzera Italiana, l'ha incontrato a Danzica 20 anni dopo la caduta del muro di Berlino. Presidente Wałęsa, cosa ricorda del 9 novembre del 1989, la caduta del muro di Berlino? Lui personalmente cosa faceva e che sensazioni ha avuto? Dobrze pamiętam, bo byłem w Warszawie. Mi ricordo molto bene, perché ero a Varsavia e il giorno precedente ebbi un incontro con la delegazione ufficiale tedesca guidata dal cancelliere Helmut Kohl e dal ministro degli esteri Hans-Dietrich Genscher. Mi ricordo di aver loro chiesto: siete pronti? Perché fra poco il muro di Berlino cadrà. Queste cose sono testimoniate anche da alcuni libri. È stato scritto. Ma ora le dico qual è stata la risposta di Genscher. Lui mi disse: vorrei tanto avere solo problemi come questo, ma sulle nostre tombe cresceranno grandissime piante, dei grandi cactus prima che ciò accada. Prima di incontrare me, Genscher ebbe un colloquio con Gorbaciov, che gli disse: se il muro di Berlino cadrà, cadrà fra 300 anni. E allora, solo allora, ne parleremo. Il resto è storia. Quel giorno, Kohl e Genscher dovettero interrompere la loro visita ufficiale in Polonia perché il muro stava cadendo. Non voglio con questo farle pensare che fossero deboli o impreparati. Erano politici di professione e un professionista della politica ragiona, calcola, si basa su fatti reali. E visti gli equilibri, la presenza di arsenali nucleari, gli interessi dell'altro blocco, ciò non sarebbe stato possibile. Gente come me, i dilettanti della politica, ha invece preso dei rischi. Noi ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. Lech Wałęsa ricorda quei momenti con una memoria vivida. Durante l'intervista lo sguardo si perde lontano, come se il passato riapparisse con tutti i suoi dettagli, gli aneddoti, i colori, le emozioni, i timori, le speranze che suscitò la lotta. Il suo tragitto è certamente stato straordinario. L'elettricista dei cantieri navali di Danzica ha fondato il primo sindacato indipendente del blocco orientale. Tenace battagliero sfida il potere e il suo sponsor, l'Unione Sovietica di Brezhnev. Dopo il golpe di Jaruzelski nel dicembre del 1981, finisce in prigione, ci sta 11 mesi e poi esce e continua la lotta. Nel 1983 è insignito del Nobel della pace, poi anni di lotta fino al 1989, l'anno della svolta, la lunga tavola rotonda con il presidente Wojciech Jaruzelski, che sfocia nelle prime elezioni libere. Nel 1990 è eletto presidente della Polonia. Un testimone d'eccezione che abbiamo voluto intervistare dopo il lungo incontro che ci aveva concesso qualche mese fa l'altro grande protagonista della storia polacca ed europea, Wojciech Jaruzelski. Jeśli chodzi o mur berliński, to widowiskowo on się może podobać, możemy go uznać za moment. Possiamo essere impressionati da quel 9 novembre, perché l'idea del muro colpisce l'immaginazione. È un'immagine forte e un momento importante. Ma la fine del comunismo non è legata solo a quell'immagine. Il comportamento dei tedeschi in occasione della sua caduta non fu eroico o ammirevole. I tedeschi dell'Est, invece di sostenere la nostra lotta, miravano solo a fuggire nella Germania occidentale. I tedeschi crearono una situazione molto rischiosa. L'URSS avrebbe potuto intervenire. Ora, l'immagine della caduta del muro è molto suggestiva. la didascalia potrebbe esserlo meno. Gorbaciov avrebbe potuto trarre vantaggio dalla situazione che si era creata. Non lo ha fatto. Immaginandomi al suo posto, avrei potuto farlo. Ma per fortuna c'era lui e non c'ero io. Nie potrafił Gorbaczow to wykorzystać. Ja bym to wykorzystał. Mieli szczęście Niemcy, że ja nie byłem na miejscu Gorbaczowa. Tutti ricordano i 20 anni della caduta del muro di Berlino, ma tutto in fondo cominciò in Polonia, come se la Polonia avesse sempre dentro di sé uno spirito ribelle. In fondo anche Gomułka, Gierek erano già un po' diversi dagli altri leader dell'Europa comunista. C'era sempre una Polonia ribelle in fondo. Otóż trzeba pamiętać, że nasze położenie było w tamtym czasie między Niemcami i Rosją przekleństwem. Sì, noi siamo sempre stati ribelli, ma lo siamo stati perché dal punto di vista geopolitico siamo sempre stati vittima di una sorta di maledizione, attorniati da Prussia, poi la Germania e la Russia. Se non ci fossimo difesi con la nostra continua ribellione, oggi il nostro paese non apparirebbe più sulle carte geografiche. Dunque, se siamo ribelli non è per via del nostro carattere, ma per le circostanze particolari. Il nostro spirito indipendente era la premessa necessaria alla nostra sopravvivenza. Queste due nazioni militarizzate amavano molto venirci a trovare e affermarsi in casa nostra. Per due mesi, dal febbraio del 1989, rappresentanti del governo, della Chiesa e dell'opposizione si riuniscono in decine di sessioni per stabilire i termini di una transizione politica ed economica del paese che stava vivendo una profonda crisi economica e sociale. Mancanza di beni alimentari, inflazione, scioperi. Il 5 aprile si giunge ad un accordo abbastanza inatteso, le cui conseguenze cambiano il corso della storia, mettendo fine agli equilibri stabiliti dalle potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale alla conferenza di Yalta nel 1945. L'intesa è resa possibile anche dal contesto sensibilmente cambiato con l'arrivo al potere a Mosca nel 1985 di Mikhail Gorbaciov, l'uomo della perestroica, le riforme. Tra le conseguenze della svolta polacca della primavera dell'89, gli accordi politici ed economici, la libertà sindacale, il diritto di creare liberamente delle associazioni nella società civile e le prime elezioni parlamentari semilibere del giugno di quell'anno. La tavola rotonda fu la premessa alla caduta del muro di Berlino. Il generale Jaruzelski ci ha detto: tavola rotonda è stato uno dei momenti più importanti della mia vita, eravamo entrambi deboli, Solidarność e il governo e il presidente Jaruzelski. Lui si ricorda anche così, hanno cominciato a discutere nel 1989 perché erano deboli entrambi? Tak, rzeczywiście byliśmy słabi, tylko że tą słabość widzieliśmy u przeciwnika. Sì, è vero. Eravamo entrambi deboli. Io dentro di me pensavo che lui lo fosse. Lui, dal canto suo, voleva usare questa debolezza per farci fuori e di riflesso per rafforzarsi. Abbiamo cominciato a trattare, ognuno convinto della debolezza dell'altro. Quello che poi accadde è ormai scritto nella storia. Lei certamente non può pensare che i comunisti facevano un gioco pulito e che erano ben intenzionati. Ja jego zlikwiduję. No i kto miał rację, no to widzimy. Come ha fatto a vincere questa battaglia e arrivare poi alle libere elezioni e l'anno successivo alla presidenza? In questa lunghissima tavola rotonda, tantissime sessioni? Okrągły stół zbudował to, co mówiłem. Dał nam przyczółki, na których dość szybko się umocnialiśmy i szliśmy do przodu. La tavola rotonda ci ha permesso di creare degli avamposti tramite i quali ci siamo rafforzati. Grazie a essa siamo riusciti ad andare avanti nella nostra battaglia. Entrambe le parti si erano impegnate a fare il possibile affinché tutte le decisioni fossero poi veramente rispettate. Credo che i comunisti mirassero a lavare tutti i loro panni sporchi nell'ambito di un mandato elettorale. Noi avremmo così dovuto comprometterci con loro agli occhi di tutta la società e questo ci avrebbe portato alla sconfitta sicura nelle elezioni successive. Io, in qualche modo durante la tavola rotonda, mi sono sempre posizionato in attacco per rafforzare le nostre posizioni, per sconfiggere il generale Jaruzelski. Se, per esempio, lei, nella sua intervista, avesse chiesto al generale se era pronto, al termine della tavola rotonda, a uscire dal patto di Varsavia e a entrare nella NATO, ebbene sono certo che avrebbe risposto di no. Se non avessimo agito con quell'atteggiamento di attacco, oggi ci sarebbe ancora l'Unione Sovietica e esisterebbe ancora il comunismo. Forse il comunismo avrebbe assunto una forma più edulcorata, ma ci sarebbe ancora nella sostanza. Ale na pewno byśmy nie mieli jedności europejskiej i tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj widzimy. Per esempio, per quanto riguarda l'unione delle due Germanie, non so se lei si ricorda, ma un mese prima Mikhail Gorbaciov disse che di questa questione ne riparleremo tra 100 anni. Minuti in cronaca. Con Jaruzelski abbiamo parlato molto di Wałęsa, di Jacek Kuron, di Adam Michnik, e sembra che Jaruzelski apprezzi questi suoi ex nemici. La mia domanda è questa: secondo lui cosa pensa di Jaruzelski e pensa che debba essere sottoposto a processo dal presidente Kaczynski? Otóż ja zawsze mówiłem i powiem to co uważam za. Rispondo a questa domanda dicendo quello che dico da sempre. La generazione del generale Jaruzelski è la generazione delle persone infelici, sfortunate, perché la Polonia nel 39 e poi nel 45 è stata tradita dai suoi alleati. È stata tradita dall'Occidente e si è trovata, noles volens, in una situazione politica che non desiderava. E queste persone si sono ritrovate a dover fare i conti con questa realtà. E se non fosse stato così, queste persone, come il generale, sarebbero state dei grandi uomini degni di rispetto. Purtroppo non hanno avuto questa fortuna. Il destino ha voluto altrimenti. Quindi è andata come è andata. Alcuni hanno tradito direttamente, altri si sono piegati, altri infine hanno agito diversamente. Io il mio giudizio lo consegno a Dio e alla storia. Non sono qui per giudicare. I te sądy oddaję Panu Bogu, historię, ja nie biorę się za sądzenie. Należy pamiętać, że okrągły stół zerwałem po pół godziny wstępu. Io ho interrotto i colloqui della tavola rotonda dopo mezz'ora perché l'altra parte, cioè Jaruzelski, non voleva accettare la presenza di Adam Michnik e Jacek Kuron alla tavola rotonda. Adesso Michnik e Jaruzelski sono quasi amici. No tak, bo ja wywalczyłem to, że mogli porozmawiać, mogli pogłębić. Sì, è vero, perché io ho fatto in modo che loro potessero confrontarsi. Poi la pressione, il peso della storia, ha fatto sì che anche loro cambiassero. Come giustificare questo? All'inizio della tavola rotonda i comunisti volevano farci fuori. E oggi? Michnik e Jaruzelski sono amici? Boh, i tempi sono cambiati. Hanno trovato diversi punti in comune. In qualche modo questa amicizia nobilita queste persone. E io non so fino a dove sia vero, spontaneo, sincero, o fino a dove sia un gioco delle parti. Non so fino a dove sia corretto e fino a dove non lo sia. Non so. Na ile to jest gra uczciwa, na ile tylko gra, no to już niech każdy sobie odpowie. Il muro di Berlino e i grandi cambiamenti dell'89 sono legati a una personalità in particolare o a diverse personalità? Pensavo Wałęsa, Papa Wojtyła, potrebbe esserci Ronald Reagan anche fino al 1988, Gorbaciov naturalmente. È stato un insieme di circostanze oppure era la storia che comunque condannava questo sistema che non funzionava? Każdy z tych ludzi odegrał wielką rolę, tylko każdy w inny sposób. Ojciec Święty. Ciascuno di questi personaggi ha svolto un ruolo importante. Ciascuno lo ha svolto in maniera diversa, a modo suo. Giovanni Paolo II ha risvegliato le coscienze, quelle polacche innanzitutto, ma anche quelle delle altre nazioni. Lo ha fatto invitando alla preghiera. Il Santo Padre non intendeva combattere il comunismo o rovesciare il comunismo, ma noi, se non ci fosse stato l'arrivo di Papa Wojtyła, non avremmo mai potuto ritrovarci così in massa, perché la polizia lo impediva, ci separava. Quando venne in Polonia, il Papa ci unì in massa nella preghiera e noi tramutammo questo nuovo spirito unitario dei polacchi proclamando gli scioperi e lanciando un nuovo movimento, Solidarność. Per quanto riguarda Gorbaciov, ebbene, ha cercato di salvare il comunismo attraverso le riforme. Lui non ha tradito il comunismo, non ha cercato di rovesciarlo. Lui ha voluto salvarlo attraverso le riforme. Lui era un politico poco esperto e non si rendeva conto che il comunismo non è riformabile. Se riformato, cade. Semplice. Certo, lui ha svolto un ruolo positivo, ma lo ha svolto suo malgrado. Lui non ha raggiunto gli obiettivi che voleva raggiungere. In un certo qual modo, questa è stata la sua fortuna. Mentre Reagan, lui ha puntato su un rafforzamento degli arsenali, creando una spirale non sostenibile per il patto di Varsavia. Come vede, tutte queste personalità hanno contribuito a modo loro e in misura diversa a cambiare il corso della storia. Wszyscy się przyczynili do obalenia, tylko każdy na inny sposób. Rozeszli się do budowania demokracji, innego systemu ekonomicznego. Le persone che hanno partecipato al nostro movimento si sono separate per creare altre organizzazioni, nuovi sindacati. In altre parole, per creare la democrazia. Come lei forse ricorderà, noi avevamo deciso di creare una sorta di monopolio sindacale per fronteggiare un altro monopolio, quello comunista. Quando un monopolio cadde, noi ci sentimmo nel dovere di cambiare. Abbiamo frantumato il monopolio sindacale per creare il pluralismo. Solidarność cessò di esistere. La solidarietà di oggi deve essere diversa da quella che esisteva. Potrzebna solidarność w każdym kraju, w Europie i globalna, ale trochę inna od tamtej. Sollecitiamo Lech Wałęsa, l'uomo che contribuì da protagonista a piegare il socialismo di Stato nell'Europa dell'Est, sul sistema economico e sociale oggi dominante. Oczywiście kapitalizm wytrzymał konfrontację z komunizmem. Il capitalismo ha tenuto testa al comunismo. In quella situazione si dimostrava un sistema positivo. Ma da quando è caduto il comunismo, e con lui tutte le grandi paure, ci rendiamo conto che il capitalismo non è poi un sistema così positivo. Noi dobbiamo riformare questo sistema, renderlo più civile, perché rischia di sfociare nell'anarchia, nella demagogia, nel populismo. Nel mondo poi sono troppe le ingiustizie, gli squilibri di redditi e dobbiamo cercare, noi politici, di muoverci per cambiare le cose. La nostra battaglia in fondo non è finita. Anche oggi bisogna essere vigili, pronti a lottare. Può ancora succedere il peggio. Il bramito dell'orso si sente ancora. L'impero ha proceduto ancora a qualche invasione. Vi è instabilità su tutti i fronti. La crisi finanziaria e economica può far ritornare il discorso nazionalista, il ripiegamento, l'esclusione delle minoranze. Nel caso dell'Est, il disordine potrebbe favorire la ricostituzione del nostro ex impero. Col senno di poi, Lech Wałęsa cosa non rifarebbe? Quali sbagli pensa di aver commesso? In grandi linee rifarei tutto. Ho fatto piccoli errori, ma non grandi. Nei nostri passi strategici non ravviso alcun errore. Certo, se l'Europa sfocerà nel nazionalismo e all'estremismo, quanti come me hanno promosso il cambiamento potranno un giorno essere maledetti. Ne sono cosciente. Ma sbaglierebbero, perché era comunque giusto e non si poteva fare altrimenti. All'ex presidente premio Nobel della pace chiediamo infine del ruolo che la religione ha svolto nella sua battaglia, nella sua vita, e che rapporto ha tuttora con la pratica religiosa, con la fede. Non potrei vivere senza religione. Non sono un bigotto, sono un peccatore. Ma non vedo il senso della vita senza religione. Perché faticare? Perché lavorare? A questi interrogativi può rispondere solo la fede. Per me la religione è fondamentale. Io so di essere un peccatore. Sono credente. La religione e la fede riguardano la vita futura, certo, ma riguardano anche quella terrena. Cerco di vivere la mia vita secondo le mie idee religiose. Religione e fede danno il senso alle cose che faccio. Non c'è contrasto tra vita terrena e al di là. Samym fundamencie, co jedni robią dla przyszłego życia, a drudzy do tego tu. Grazie dunque a Roberto Antonini, autore di questa intervista, di questa vera e propria cavalcata nella storia polacca e non solo, nella storia europea intorno ai giorni decisivi della caduta del muro di Berlino. Questo incontro è avvenuto proprio a Danzica, la città natale di Lech Wałęsa. L'appuntamento con 30 minuti in cronaca, come sempre, è per sabato prossimo e come sempre è anche su radio24.it. Un saluto e un ottimo fine settimana a tutti voi.